Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Bentornati su Mix 24 estate. Stiamo raccontando gli anni 70 tra musica e storia con le voci di Franco Schipani e di Alessandra Fiori. Oggi ci occupiamo del 72. Allora Franco, qual è il brano più ascoltato quest'anno? Giovanni, ti dico subito che il motivo più ascoltato del 1972 è un brano strumentale. Il padrino, Santo e Johnny. Ciao a tutti, sono Franco Schipani. E io sono Alessandra Fiori e Franco, vi dico subito che l'anno si apre anche con una bella crisi di governo. Ah. Nella crisi di governo apertasi all'indomani delle elezioni presidenziali si è tentato un nuovo sbocco con l'incarico conferito all'onorevole Giulio Andreotti dal Presidente della Repubblica. Non mancano tuttavia gli ostacoli, dalla difficile situazione economica. Il primo governo Andreotti, che è anche il governo più corto della storia, dura soli 9 giorni. Non ottiene la fiducia, per la prima volta le Camere si sciolgono in anticipo, si va alle elezioni e cambia poco perché si forma un altro governo Andreotti e ci sono nuovi problemi di instabilità. Nel frattempo però inizia un dibattito piuttosto importante, Franco, ed è quello sul referendum per il divorzio, che si terrà però fra 2 anni, ma intanto il clima si scalda parecchio. Ecco Franco, ma il clima invece della musica italiana del 72 qual è? Com'è? Quali sono le novità, Franco? Ma guarda, hai visto una spiaggia bella, meravigliosa, bianca, caraibica, che va nel mare, è perfetta, poi arriva uno e ci deve fare sopra il castello di sabbia per farla ancora più bella. Ecco, questo padrino l'hanno cantato tutti anche nel Pakistan, però qualcuno ci ha dovuto mettere le parole. Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità. Neppure il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano. Non so se vi rendete conto, ma il nostro Chiappini, Alessandro, riuscito a far cantare Johnny Dorelli e Ornella Vanoni, che non hanno mai cantato insieme questo pezzo insieme, li ha fatti cantare. Non male. Allora, Johnny Dorelli, chiaramente Ornella Vanoni con Parla più piano, che appunto la musica del padrino, le parole sono di altri. L'hanno cantato tutti, dicevo, questo il padrino. Tutti, anche l'orchestra di Augusto Martelli. Ma tu non l'hai cantata, Franco? Io non l'ho cantato, ho provato a fischiarla in bagno mentre mi facevo la barba, però non funziona perché tutti sanno che quando tu fischi e ti fai la barba ti tagli, cara Alessandra. Allora, perché è universalmente noto il principio cardine della civiltà maschile: non si può fischiare facendosi la barba, però Franco, ci si può radere le gambe fischiando, si può anche, alcune riescono anche a fischiare mentre subiscono una ceretta, non viene benissimo ma succede. Comunque Franco, allora, che altro è successo nella classifica? Vincono le parole o la musica? Tu immagina se questo discorso l'avessero fatto Mogolo Battisti. No, la musica è più bella, non le parole sono più belle le mie. Hai capito? Insomma, qui si sono tutti dovuti arrendere, perché è vero che ci sono dei brani strumentali, però guarda un po' che cosa troviamo in classifica. Right. Avete riconosciuto questi brani? Il primo era di Arancia Meccanica, il secondo di Giù la testa di Ennio Morricone e chiaramente l'ultimo Shaft di Isaac Hayes. A proposito, volevo dirvi una cosa: vi ricordate Isaac Hayes nelle copertine con quelle catene d'oro che aveva? I catenoni. Ecco, non li hanno inventati i rappers questi catenoni d'oro, li ha inventati lui, perché all'epoca si diceva, avete visto? Gli schiavi portavano le catene, che era il senso appunto, il simbolo della schiavitù. Isaac Hayes, appena è diventato miliardario, che cosa ha fatto? Ha cambiato queste catene e le ha fatte diventare oro proprio, capito? Beh, sono diventato male. Ricco e mi levo le catene, o se me le tengo, me le tengo come dico non io. Non male. Comunque, a proposito di catene, Franco, drammaticamente non si interrompe la catena di sangue inaugurata dalla strage di Piazza Fontana. Il commissario capo Calabresi era appena uscito dal portone di casa in via Cherubini 6 per raggiungere la sua vettura, una 500 parcheggiata poco distante da casa. Mentre si accingeva a infilare le chiavi nella serratura dell'auto, veniva avvicinato da una 125 blu sulla quale, secondo i testimoni, si trovavano due persone. L'uomo, sceso velocemente dall'auto, ha sparato a bruciapelo 3 colpi di pistola contro il commissario. I medici dell'ospedale San Carlo non hanno potuto nulla contro la gravità delle ferite, una alla spalla, una alla nuca e una ai reni. Il commissario Calabresi era stato oggetto di una durissima campagna stampa che gli attribuiva delle pesanti responsabilità nella morte dell'anarchico Pinelli, che era appunto avvenuta a Milano durante le primissime indagini sulla strage di Piazza Fontana. All'indomani dell'omicidio di Calabresi, il giornale Lotta Continua titola: ucciso Calabresi, il maggior responsabile dell'assassinio Pinelli. Ma in quel periodo anche nelle hit parade italiane succede qualcosa. Arriva l'elettronica. Il brano che hai appena sentito del Guardiano del Faro di Amazing Grace è come se tu, cioè un sacrilegio, è come se tu prendessi, non so, l'inno nostro italiano e lo trasformassi in disco music. Ecco, allora, vediamo un po' questa infatuazione che tipo di dischi nel 1972 riesce a mandare in classifica. E dopo Il Padrino, questo è il brano più eseguito in classifica nel 1972. Si tratta di Popcorn, due versioni, Hot Butter e La Strana Società. Sentite, ci sono tutti questi strumenti sotto, elettronici. Ma è lo stesso brano? È lo stesso brano, fatto in un modo diverso. Comunque, tutte e due in classifica. Ecco, inizia il momento dell'elettronica, quindi strumenti nuovi. Noi abbiamo iniziato con gli italiani col farfisa, poi sono arrivati il Moog, il Mellotron e tantissime altre cose, però c'è qualcuno che sull'elettronica veramente è riuscito a creare anche dei capolavori. Già l'odore della terra, odore di grano, saladaggio verso me, vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più là, sembra quasi un mare l'erba, è leggero. Il pensiero volava, ho quasi paura che si perda. Impressioni di settembre, premiata Forneria Marconi, un pezzo classico del nostro pop di sempre. Senti, Impressioni di settembre, ma io subito dopo la viabilità ti vorrei portare un po' indietro, al maggio del 72, dopo la viabilità. Mix 24, musica e storia. Ben bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori e con lui Franco Schipani. Franco, ciao. Schipani, stiamo raccontando il paese attraverso la storia e la musica. Per ora però siamo nel 1972 e avevo promesso a Franco un piccolo passo indietro e torniamo al maggio di quell'anno, quando il 31 per essere precisi, a Peteano, in provincia di Gorizia, tre carabinieri muoiono in un attentato. Salta in aria una macchina imbottita di tritolo. Perdono la vita tre carabinieri, un quarto resta... Ho sentito un boato spaventoso e un bagliore che mi ha accecato. Corpi dilaniati con arti nel raggio di 100 metri, una cosa terrificante. Mi hanno riconosciuto perché sulla spallina avevo ancora una stelletta. Era la testimonianza del tenente Angelo Tagliari, sopravvissuto all'attentato rivendicato da Ordine Nuovo, in cui sono morti appunto tre carabinieri, Antonio Ferraro, Donato Poveromo e Franco Don Giovanni. Ma tornando ancora più indietro, Franco, in questo 72 c'è stato come sempre il Festival di Sanremo. Ecco Franco, ma quello del 72 è un festival che risente della tensione fortissima che percorre il paese o no? No, guarda Alessandra, quello del 72 è stato veramente un festival veramente, veramente anonimo, tant'è vero che non vale neanche la pena di ascoltare la canzone vincitrice che è rimasta proprio nel dimenticatoio. Ascoltiamo invece due brani che poi hanno avuto un grandissimo successo e hanno fatto la fortuna dei loro interpreti. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do, quanto ne ho. Con me di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che briganti come me qui non ce n'è. Ricordo montagne verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato e quello che era mio scomparivano piano piano, e piangendo bye bye con Dio. Piazza Grande, Lucio Dalla, che evidentemente aveva imparato le lezioni dell'anno precedente di Sanremo con 4 marzo 1943, e poi Montagne Verdi di Marcella Bella. Un brano che mi fa divertire perché ogni volta che sentivo Jovanotti a New York in questi piccoli club che faceva il concerto, la prima cosa che faceva, non so perché, ma cantava appunto questa canzone di Marcella, Montagne Verdi. Vabbè, un mistero. Non male però, scusa, questi due brani non male. No, allora, no, non male. Non male. Allora perché gli unici mi dici deludente? Gli unici, perché è così deludente questo festival? Ma il festival perché è un festival triste, la gente non ha necessità di divertirsi, però al festival non ci si diverte, in Italia non ci si diverte, la società la vedi un po' racchiusa su se stessa, un po' piegata, non guarda più al futuro, vive nell'incertezza, quindi questa cosa si sente. Infatti le cose più belle di quell'anno non succedono al Festival di Sanremo, ma fuori dalle stanze dorate del casinò. Ritorno così a fare il vagabondo, girando paesi e città, volevo portare l'amore nel mondo, ma penso un paese di molti anni fa. E quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo chi son io, vagabondo chi non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. Non avrei mai... Viaggio di un poeta e Dick Dick, io vagabondo dei nomadi, noi due nel mondo nell'anima e poi piccolo uomo di Mia Martini. Ecco, piccolo uomo sulla quale, come hai visto, addirittura si scatenavano in regia, in particolare. Sì, effetto discoteca. A un certo punto parte. Migliaccio parte, Guerrera segue. Comunque, da un piccolo uomo come quello di Mia Martini passiamo a un grande uomo invece, Franco, perché proprio nel 1972 Enrico Berlinguer diventa segretario del Partito Comunista. Sempre parlando di potere, in televisione ha ammesso, sia pure con molta reticenza, che rifare il segretario del Partito Comunista dopo 10 anni le fa ancora piacere. Ecco, ma perché tanta reticenza nell'ammetterlo? Mi ha dato soddisfazione l'ampiezza del consenso con la quale sono stato designato. Ma per lei cos'è il potere? Il potere è uno strumento insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni. Era Enrico Berlinguer che è rimasto segretario del partito da quel 1972 fino alla sua morte. E a proposito di morte, dobbiamo ricordare un altro grande uomo che ha scritto una canzone che poi è diventata il simbolo per intere generazioni. Imagine there's no heaven. Questa l'avete riconosciuta, è Imagine di John Lennon. Un simbolo vero, tant'è vero. Che so cosa ne rimane oggi anche? No. È il sottofondo di un sacco di segreterie. È terribile, ma è così. È terribile. E comunque lui cantava, immagina il mondo vivere in pace, cantava così John Lennon. Ed è un sogno lontanissimo dall'estate del 1972, perché durante le Olimpiadi di Monaco, il comando di terroristi palestinesi, noto come Settembre Nero, irrompe nel villaggio olimpico, uccide due atleti israeliani e ne sequestra altri 9, che nel giro di pochissimo tempo faranno la stessa fine, parliamo di poche ore. Ma sentiamo la reazione del primo ministro israeliano Golda Meir. Non abbiamo altra scelta se non quella di colpire le organizzazioni terroristiche, ovunque siamo in grado di farlo. È un dovere che abbiamo verso noi stessi e verso la pace, e assolveremo questo dovere in modo inflessibile. E infatti dalla strage di Monaco nasce un piano incredibile, una vendetta pianificata, voluta e organizzata dal servizio segreto israeliano, il Mossad, su preciso mandato di Golda Meir. E poi, Franco, proprio su quell'operazione c'è un bellissimo film di Steven Spielberg, che forse hai visto. Bellissimo. L'hai visto? Sì, certo. Del 2005, anche se è del 2005 tu l'hai visto. Sì. Ed è con Eric Bana, Daniel Craig, Geoffrey Rush. Ma intanto, Franco, qualcosa sulle nostre spiagge succede, però tu ce lo racconti dopo il GR. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Dalla Brexit all'immigrazione dall'Europa alla Cina, dall'Iraq a Molenbeek, tutti i temi più caldi dell'estate in un'ora di grande attualità internazionale. E poi le analisi e i racconti dei grandi eventi del nostro tempo. Risorse e materie prime, ambiente, cultura, letteratura, religione. Al di là degli stereotipi e senza censure. Voi andate pure in vacanza, il mondo ve lo raccontiamo noi. Sono Giampaolo Musumeci. Anche quest'anno, zaino in spalla, ho viaggiato e indagato storie e fenomeni. Ora riaccendo il microfono per raccontarveli. Se anche voi pensate che nessun luogo è lontano, vi aspetto dal 1 agosto, tutti i giorni, alle 16, qui, su Radio 24. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a un'Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a Terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza, Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. E non solo, tante storie e curiosità e poi le nostre rubriche come Non battere la fiaccola, le animaliedi e la scienza nello sport. Terra in vista ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Mix 24, musica e storia. E la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue corse, l'eco dei tuoi no. Stai facendo paura. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più e ho nell'anima. La canzone del sole, i giardini di marzo di Lucio Battisti. Ecco, immaginate la spiaggia con un falò, tanti ragazzi intorno, uno con la chitarra che suonava questi pezzi, sicuramente rimorchiava. Però mi dicevano, vedete questa chitarra? Questa è una chitarra da 3 euro, da 4 euro direbbero oggi. Ecco, su questa chitarrella, questa da 4 lire, Lucio Battisti ha composto tutti i suoi più grandi successi. Hai capito, Battisti? Comunque noi intanto siamo tornati e siamo sempre Alessandra Fiori e Franco Schifani. Vi stiamo raccontando la musica e la storia del paese nel 1972 e caro Franco, io sai che amo Battisti, no? Lo amo moltissimo, però ti voglio dire, Franco, scusami, ma una donna, una, me la metti? Guarda, te la faccio subito ascoltare. Ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro, in un attimo tu sei grande, grande, grande, le mie pene non me le ricordo più. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Grande, grande, grande, parole, parole, parole, Mina ovviamente. Vabbè Franco, però scusa, sei andato un po' sul sicuro, facile, è così facile. Mi sono approfittato anche di Alberto Lupo. Dai, comunque allora sai che c'è, io faccio come te e ti dico che il 72 è anche l'anno di un clamoroso ex aequo al Festival di Cannes. Due film italiani, Franco, che raccontano veramente la realtà di quel periodo. Sono La classe operaia va in paradiso di Petri e Il caso Mattei di Francesco Rosi. Io parto sempre dal principio che il cinema è conoscenza e poi comunicazione. Un personaggio così ricco di avvenimenti, di intenzioni, di progetti come Mattei, e viene voglia di raccontarlo alla gente, di spiegarlo. Era Francesco Rosi, regista del caso Mattei. Ma caro Franco, sempre il 1972 è anche l'anno di un altro film. Un film che per ragioni completamente diverse, completamente diverse, crea un certo scalpore, lo senti? Vediamo in sottofondo, lo senti? Lo senti. È Ultimo Tango a Parigi di Bertolucci. La sua uscita in Italia dà scandalo e la pellicola viene sequestrata. Ma certamente, Franco, tu non ricorderai la scena dello scandalo e non ci avrai neanche pensato. Ma però, stai scherzando? Dico, io mi ricordo esattamente perché io ero appena diventato maggiorenne. Io c'avevo i documenti che potevo provare di essere 18 e qualcosa, c'era la fila. Quindi potevi vedere. Assolutamente. Ho capito. Prima che lo sequestrassero. Bene, ovvio. Ma andiamo avanti, Franco, benissimo. Allora, passiamo però ad altri monumenti, quelli della musica. Dicevamo Mina, Battisti, voglio nomi di altri. Quelli sono scomparsi. Tu dici Rita Pavone, Caterina Caselli, Gianni Morandi. No, sono scomparsi completamente dai radar. Però Adriano Celentano, uno di questi miti, che cosa fa in quel momento? Si ricicla, comincia a fare l'attore, prima in piccole parti, poi in parti più importanti, poi addirittura si mette a fare il regista, però non è che dimentica le classifiche. E infatti quell'anno dice faccio il disco, si piazza in classifica con un brano ecologico. È la tua mania di vivere in una città, guarda bene come ci ha conciati la metropoli, belli come noi, ben pochi sai, ce n'erano e dicevano quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spacciavano, già sapevano che sarebbe l'albero di 30 piani, Adriano Celentano. Senti un po', Franco, scusa, però negli anni 60 in classifica ci finiva anche un po' di dialetto. Tanto. I Capri, Carosone, alcuni sono stati tradotti in inglese, tipo It's Now or Never. Subdolo Elvis. Solo mio, interpretato da Elvis. Esatto. Ma nel 72 che facciamo? Il funerale del dialetto? No, assolutamente no, perché sparisce per il momento quello napoletano, però stranamente per qualche motivo arriva quello romano. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via, quanto se bella Roma quando piove, se va gente che potremo pagare, da domani comincia il carvario, non c'è altro da fare, finirà sto calendario e qualcosa cambierà, se moricchi E questi sono i due brani romani in classifica nel 1972, Roma Capoccia, Antonello Venditti e Semo gente de Borgata di dei Vianella, con Vianello, chiaramente. Senti, e signora. Io lo sai che sono di Roma, però ti posso anche dire, proprio perché sono di Roma, anche basta con questa Roma. No, basta. Invece poi che facciamo? Possiamo fare un po' gli internazionali. Precious things love has in store. You may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. And I think it's gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find Without you, Nilsson, we have all the time in the world, Louis Armstrong. Alone Again, Gilbert O'Sullivan e anche Rocket Man di Elton John. Madonna ragazzi, che annata! Soprattutto Elton John. Vabbè, lo so, no, ho visto la lacrimuccia, Alessandra. Sì, sì, sì. Su, okay, bentornati, okay. Su Mix 24, musica e storia. Io sono ancora Alessandra Fiori. Con Franco Schipani. Con Franco Schipani. Stiamo raccontando il paese del 1972. E allora, Franco, posso azzardare un commento a questo mix azzardo, di Chiappini? Azzardo, dai, azzardo, azzardo. Io provo. Dimmi. Dico una parola. Easy listening. Ti piace? Mi piace. Ti dice che insomma che è una musica facile. Allora, dato che a te la musica facile non piace, vediamo che cosa c'è nell'annata 1972. Catch me, no, I ain't gonna let them catch me, not around her. I gotcha, Joe Tex, Midnight Rider di Joe Cocker and Telegram Sang dei T-Rex. Senza esagerare, Alessandro. Ma anche un po' esagerando, Franco, roba seria. Ma ti devo chiedere una cosa, perché roba così seria che non mi sembrano cose da spiaggia. E che c'è quel silenzio totale in spiaggia? Ma no, guarda, dai. Abbiamo già detto prima che era un momento difficile per l'Italia, che tutti erano, insomma, non erano proprio nelle migliori condizioni di spirito. Però, insomma, l'estate poi è ancora un po' più leggera, la gente ha anche voglia di divertirsi e dimenticare un po' i problemi. E allora in spiaggia ovviamente si sentiva questo. Non ci sei, per chi sorridere e scherzare ancora, per chi io vivrò. Have I a hope or half a chance? My World dei Bee Gees, per chi, Gents, Oh Baby, What Do You Say di Lee Hurricane Smith e Voglio Stare Con Te della coppia, la prima coppia interrazziale italiana, Wes e Dori Ghezzi, Alessandra. Ah, la prima? La prima, in assoluto. Ecco. Senti, l'anno sta per finire proprio su questa prima coppia e io ti devo fare una domanda, Franco. Ma tu, il servizio militare, l'hai fatto? Ma certo che l'ho fatto, 5 giorni pieni, 3 a Pesaro e 2 a Bologna. Tu non ci crederai, ma io lo volevo fare il militare, lo volevo, no no, lo volevo veramente fare, però non mi hanno proprio voluto, mi hanno proprio mandato strano, via. Strano, e io insistevo, strano. Io insistevo, ma mi tu hanno mandato comunque, via, insistevo. Io te lo chiedo perché nel dicembre del 1972 arriva la legge sull'obiezione di coscienza, ovvero gli obiettori, appunto, possono scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio. Quindi Franco, a te non interessa perché tu comunque hai tentato. Non ti hanno non voluto, hanno voluto, non ti hanno voluto, mi hanno capisco. Mandato proprio via. Strano. Comunque Franco, adesso come sempre immagino che tu abbia qualcosa per tenere un po' alto il morale. In chiusura dobbiamo sentire un brano che abbiamo sentito prima, però non intero, e questo è un peccato perché si tratta della premiata di Franco Marconi con Impressioni di settembre, però noi ve la vogliamo far ascoltare nella versione di un grandissimo della musica italiana, da Franco Battiato. Quindi ciao da Franco Schipani e da Alessandra Fiori. Ci vediamo nel 1973. Quindi domani. Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no. È sveglia, mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno e ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va, ho quasi paura che si perda. Cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede, già fuggito, respiro la nebbia, penso a te. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. No, no, cosa sono adesso non lo so. Sono solo il suono del mio passo. E intanto il sole tra la nebbia filtra già. Il giorno come sempre sarà.